Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Stefano Fassina, romano, 47 anni, sposato con 3 figli, bocconiano di sinistra, è tra i primi a gridare rottamiamo l'agenda Monti e a dire di troppa austerità si muore, puntiamo alla crescita. Da membro del Fondo Monetario Internazionale si è occupato per 5 anni dell'ex Unione Sovietica, consigliere di Visco, di Padoa-Schioppa, che riteneva bello pagare le tasse, non ha esitato a spiegare che esiste un'evasione di sopravvivenza, non fuma, non beve, gira con un'utilitaria piena di documenti. Vice ministro dell'economia nel governo Letta, ha minacciato le dimissioni perché senza collegialità, dice, non si va avanti. Per ora, dopo un colloquio col premier, le dimissioni sono rientrate. Allora, onorevole Fassina, 1-0 per Letta dopo l'incontro? No, non era una gara con Letta, è stato un confronto sulle priorità del paese e ho trovato un Presidente del Consiglio consapevole del problema che avevo evidenziato e la necessità di trovare soluzioni. Quindi 1-1, va bene. Senta, in realtà lei è sempre stato contro le larghe intese, poi però le ha accettate. Perché? Perché il Paese è in una drammatica emergenza economica e sociale, oltre che istituzionale, non si può permettere un altro giro a vuoto della politica. E c'era solo quella soluzione. Quindi Galli della Loggia, però sul Corriere ieri ha scritto: le larghe intese non risolvono nulla. Non è vero, le larghe intese stanno affrontando emergenze drammatiche, dopodiché le larghe intese coinvolgono forze alternative e quindi fanno fatica a trovare le risposte che sarebbero necessarie. Ma per lei, esattamente, in una battuta, cosa sono le larghe intese? Sono una risposta emergenziale alle emergenze del paese. Vabbè, poi vedremo le risposte. I suoi rapporti con Letta sono stati però sempre difficili, è una questione di carattere o di sostanza? No, abbiamo avuto divergenze perché abbiamo sensibilità diverse, ma ho una grande stima del presidente Letta e credo che sia l'uomo giusto al momento giusto. E qual è la sua qualità principale di Letta? È la serenità della sua forza. E il suo difetto? A volte un eccesso d'attenzione ai punti di vista diversi. Senta, cioè cambia idea insomma. No, svolge un ruolo di mediazione capita di dover sopportare mediazioni che non si vorrebbero. Senta, in ogni caso adesso lei è rimasto per sempre o fino al prossimo scontro? No, sono rimasto perché vedo le condizioni per poter lavorare come il governo va avanti finché risolve, affronta le emergenze del paese. Senta, se ho capito bene, lei gestirà il percorso della legge di stabilità in Parlamento e il confronto con i sindacati, è così? Gestirò il percorso della legge di stabilità, il confronto con i sindacati, ovviamente non da solo, insieme... Naturalmente, ma insomma questo è il risultato dell'incontro. Ecco, ha paura che oggi i sindacati decidano lo sciopero generale? Sarebbe un errore. Perché? Perché il governo Letta, come tutti i governi europei, si trova a muovere dentro vincoli stringenti e tutti dobbiamo avere consapevolezza. Senta, ma cadono ancora i governi per uno sciopero generale? Potrebbe essere un momento molto difficile, non credo che potrebbe portare alla caduta del governo, ma sarebbe certamente un problema politico serio. Quando li incontra? Da domani iniziano i passaggi in Senato. Senta, qui da noi la Camusso l'altro giorno ha definito il governo Letta però un governicchio che non sceglie. Sarà lei coi sindacati a far scegliere qualcosa a questo governo? Noi ascolteremo le parti sociali, ascolteremo le forze della maggioranza e dell'opposizione, cercheremo soluzioni alle criticità. Sì, ma in che direzione vorrebbe orientare, visto che segue nella direzione questa... dell'equità e del sostegno ai produttori. Senta, ma ci riuscirà anche se è una legge che è cambiata 7 volte per adesso in 72 ore? La legge cambia perché è frutto di un processo che coinvolge più attori e cambierà. Non è tanto 7 volte? No, diciamo l'anomalia di queste giornate è stato che sono uscite a ripetizione le varie versioni. Troppe indiscrezioni. Ma è sempre stato così. Senta, per esempio, per parlare di lavoro, è normale che in un paese dove la cassa integrazione in deroga, cioè un'eccezione, viene rifinanziata da 7 anni e non si riescono a usare quei fondi per dare, per esempio, un reddito minimo a tutti, come capita in quasi tutti i paesi europei, a parte l'Italia e la Grecia? Purtroppo per dare un reddito minimo a tutti i costi sarebbero molto molto più elevati di quelli della cassa integrazione in deroga. E aggiungo che noi dobbiamo puntare al lavoro di cittadinanza, non al reddito di cittadinanza. L'assistenza, per quanto attiva, deve essere una fase temporanea. Senta, ma basteranno i 14 euro in più in busta paga per convincere i sindacati che le cose vanno meglio? No, assolutamente no, però l'anno scorso di questi tempi discutavamo dell'aumento delle tasse. Dopo ne parleremo. Squinzi, il presidente di Confindustria, ha detto che la situazione fa schifo e non c'è stato nessun coraggio. Lei cosa gli risponde? Rispondo che non è vero, la situazione è difficilissima. Il governo ha cercato, negli spazi angusti in cui si può muovere, di dare risposte. Vabbè. Allora non bastano, certo. Intanto però si parla di un maxi sconto fiscale per le banche. È vero che ci sarà questo maxi sconto? No, non c'è nessun maxi sconto, c'è un intervento fiscale sulle perdite su crediti che è finalizzato a migliorare l'accesso al credito per le piccole imprese. Sì, ma c'è rischio di fallimento per qualche banca? Non mi pare. No, senta, però mettiamola come vuole, per i signori banchieri i soldi poi alla fine ci sono sempre. Ma guardate, le banche servono a finanziare l'economia, quindi bisogna vedere se i provvedimenti che si fanno alla fine sono utili per l'economia. Però sti soldi arrivano alle banche. Ma non arrivano soldi a pioggia o incondizionati, arrivano misure che, ripeto, come quella che c'è nella legge di stabilità, serve a migliorare l'accesso al credito bancario per le imprese. Vabbè, meglio essere bancari oggi che banchieri, anzi, che imprenditori. Senta, quali cambiamenti lei spera che arrivino in Parlamento anche attraverso quest'opera di accompagnamento che fa lei? Ma spero che si possano utilizzare meglio le risorse previste per l'IRPEF dei lavoratori, spero che si possano trovare ulteriori risorse per gli investimenti dei comuni, perché oggi il problema dell'Italia e dell'Europa è la domanda, non è l'offerta ma è la domanda. La domanda. Senta, ma che cosa non si può assolutamente rinunciare? Sanità pubblica, trasporto, scuola, a che cosa? Beh, la sanità già, diciamo, non è stata toccata. Non è stata toccata questo giro, ma è stata toccata molto e a fondo nelle finanziarie precedenti. Sanità, scuola, pensioni dignitose sono i capisaldi di un welfare democratico, di un welfare delle classi medie che dobbiamo salvaguardare. Senta, però a proposito di scuola, il sindaco di New York ha detto fate l'idraulico perché studiare è inutile. Visco più o meno l'altro giorno ha detto non proprio questo, ma una cosa simile. Beh, è terribile. Non sono d'accordo, Visco ha messo in evidenza uno scarto tra le potenzialità della nostra forza lavoro e le opportunità che trovano. Dobbiamo innalzare la specializzazione produttiva delle imprese. Però quello che dice il sindaco di New York fa impressione. Sì, ma sbaglia clamorosamente. Senta, il presidente Napolitano dice in questo momento serve coraggio e non incoscienza. Ecco, ma coraggio, che cos'è oggi coraggio? Coraggio è stare in un governo e affrontare un governo in un quadro difficilissimo dove non ci sono le condizioni per poter dare subito tutte le risposte che il paese si aspetta, e coraggio vuol dire sfidare. Quindi vuol dire avere pazienza, coraggio in questo caso? No, vuol dire sfidare appunto i conservatori europei e questa linea di politica economica europea di austerità cieca, di svalutazione del lavoro che sta portando a fondo tutta l'eurozona, non soltanto però l'Italia. Però la luce in fondo al tunnel, abbiamo sentito nel giornale radio dati sugli euroscettici, mi sembra che questa luce in fondo al tunnel non sta portando verso un'Europa più unita. La luce in fondo al tunnel la dobbiamo accendere con un cambiamento radicale di rotta nella politica economica dell'Eurozona, e a questo serve anche la presidenza italiana che parte il 1 luglio 2014. E quindi non c'è per adesso questa luce in fondo al tunnel, diciamo la verità. È molto fioca e assolutamente inadeguata a rispondere al problema del lavoro. Senta, ma è l'incoscienza, dicevamo di Napolitano che ha detto coraggio, incoscienza, cos'è l'incoscienza? Incoscienza è dire che si possono tagliare subito 20 miliardi di spesa pubblica per finanziare il cuneo fiscale. Ecco, senta, lei ha votato per il secondo mandato Napolitano? Sì. E lo rifarebbe? Assolutamente sì. Ma Napolitano ha troppo potere, come dicono in molti, oppure riempie un vuoto politico che c'è? Napolitano assolve le sue funzioni, per quanto mi riguarda, in modo assolutamente rigoroso e dà supporto ad un Parlamento che era... Insomma, riempie i vuoti, diciamoci la verità. Riempie i vuoti, ma senza sconfinare. E sull'amnistia ha ragione il Presidente? Ha posto un problema politico assolutamente drammatico. Ma gli dà ragione? Ci vuole la legge subito? Ci vuole una legge che ovviamente non si limiti ad affrontare solo l'amnistia o l'indulto, ma rimuova le cause che determinano periodicamente l'affollamento inumano delle carceri. Senta, con lei Letta ce l'ha fatta, è tornato al governo. Monti invece, che si è dimesso in qualche modo da se stesso, se n'è andato perché dice che questa legge di stabilità realizza soltanto il programma del PDL, cioè si scrive, com'è, si dice Letta, si scrive PDL. Ha torto? Assolutamente sì, Monti cerca di coprire il fallimento del suo progetto politico attaccando il governo Letta. Se Monti guardasse a tutti i provvedimenti che abbiamo approvato, dalle risorse ulteriori alla scuola, alla cultura, agli esodati, alla cassa integrazione in deroga, all'IMU sui capannoni delle imprese, vedrebbe che sbaglia clamorosamente. Il Sole 24 Ore però ieri ha calcolato che la TASI vale più dell'IMU, cioè in realtà pagheremo di più. No, non è vero, perché il confronto va fatto tenendo conto anche della TARES, di 1 miliardo di TARES, perché la service tax sostituirà non solo l'IMU ma anche la TARES, e con il confronto corretto pagheremo 1 miliardo in meno. Capisce che quasi non so di lingua oramai per gli italiani, eh? Tutte queste non può anche dire sì se vuole. No, ma sono d'accordo, dopodiché ripeto, è un governo di coalizione, non è il governo del PD, noi come noto avremmo fatto scelte diverse. Ecco, però io non ho capito se alla fine di questo scioglilingua Berlusconi e il PDL hanno perso o hanno vinto la battaglia sull'IMU. È stato un compromesso. Vabbè, ma 51% di chi? Ma guardi, io credo che il 51% ci può essere stato sulla prima rata, poi a regime credo che si sia trovata una soluzione equilibrata. Quindi ha perso Berlusconi. Il PDL, secondo lei. La seconda rata dell'IMU si pagherà? Dobbiamo trovare, non si pagherà la seconda rata dell'IMU, dobbiamo trovare il modo per coprire 2.400 milioni di euro che è molto difficile trovare. Quindi, insomma, si pagherà. Non si pagherà la seconda rata dell'IMU. No, vabbè, questa cosa si dovranno trovare risorse per sostituirla. Senta, a proposito di tasse e di evasione, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Befera, qui da noi, ha detto che lei aveva ragione quando ha detto che c'è un'evasione di sopravvivenza. Conferma che è lecita l'evasione di sopravvivenza? No, non è lecita, nessuna forma di evasione è lecita, dopodiché dobbiamo riconoscere che ci sono diversi milioni di contribuenti che vivono con l'acqua alla gola e a volte non riescono ad adempiere con sofferenza ai loro compiti. E quindi in quei casi è lecita, diciamo. In quei casi noi dobbiamo intervenire con le politiche che consentono a tutti di stare in regola, abbassando il livello delle tasse, abbassando il costo dell'energia. Ma quando capita a uno che non le paga perché proprio non lo può fare... Dobbiamo fare in modo che questi casi siano sempre più marginali. Senta, ieri Maradona, a che tempo che fa? Ha fatto il gesto dell'ombrello rispetto al, come dire, alla richiesta proprio di Equitalia di, mi sembra, 40 milioni di euro, non vorrei sbagliare, a cui è stato condannato a pagare. Ha fatto, praticamente, l'ha mandati... È un'evasione di sopravvivenza? Anche no, è un gesto da miserabile e credo che vada perseguito con grande determinazione. Stiamo parlando di quasi 40 milioni di euro e Maradona farebbe bene a imparare a rispettare le leggi. Senta, è triste la parabola di Monti o coerente? No, è triste perché non ha tenuto conto di quelli che sono poi gli interessi del paese. Senta, lei non l'ha mai amato fin da quando era suo rettore, credo, professore alla Bocconi. Perché? Cos'è che non le piaceva fin da allora? No, in realtà in Bocconi avevamo un eccellente rapporto. Dopo, quando è salito in politica, come dice lui, non ho ritenuto inaccettabile la sua pretesa di mascherare dietro un paravento tecnico scelte politiche. Non ha avuto il coraggio di dire che le posizioni che prendeva erano politiche, non tecniche. Ma può esistere un governo tecnico? No, appunto, ecco. Non esiste un governo tecnico. Un governo è politico e bisogna essere trasparenti, perché in democrazia i cittadini devono sapere, non cercare rifugi dietro inesistenti soluzioni tecniche. Quindi Napolitano qui ha sbagliato a puntare su di lui? No, credo che in quel momento fosse la soluzione migliore, forse abbiamo sbagliato noi come Partito Democratico a non capire che a un certo punto quell'esperienza andava superata. Senta, lei, onorevole Fassina, dice che è più importante costruire degli asili nido che ridurre le aliquote fiscali. Ecco, ma non si potrebbero già costruire con queste tasse che sono tante? Le tasse le dobbiamo ridurre, la nostra anomalia è il livello di evasione. Noi abbiamo un'evasione che è il doppio della media europea. Se teniamo da parte l'evasione di sopravvivenza e andiamo a colpire i signori Maradona, noi recuperiamo 50 miliardi l'anno, possiamo ridurre le tasse e possiamo costruire asili nido. Ma non sono troppe le tasse comunque in Italia per chi le paga? Assolutamente sì, è una priorità, è un'emergenza nazionale la riduzione delle tasse, bisogna farlo colpendo le cause vere, e tra le cause vere c'è il livello abnorme di evasione rispetto alla media europea. Ma è vero che lei odia i ricchi? No, io vorrei che tutti avessero le stesse opportunità in una democrazia. Ma per lei, quando uno è ricco? Guardi, la Banca d'Italia ci dice che il 10% delle famiglie italiane ha il 50% della ricchezza. Ecco, quel 10%, quel 10% ricco. Penso che possa essere definito ricco. Ecco, ma per ridurre l'IRPEF, secondo lei c'è solo da fare una bella patrimoniale per colpire appunto i grandi patrimoni? No, non sono d'accordo sulla patrimoniale, perché la patrimoniale, nella condizione dei mercati finanziari aperti che abbiamo, rischierebbe di colpire prevalentemente la classe media. Noi dobbiamo puntare alla crescita, e attraverso le risorse della crescita poi ridurre le tasse, coinvolgendo ovviamente anche quelle risorse dall'evasione. Senta, Befera però dice che diminuire le tasse farebbe aumentare le entrate fiscali. Ha ragione, perché aumenterebbe la cosiddetta compliance, cioè l'adempimento spontaneo. Quell'evasione di sopravvivenza si ridurrebbe notevolmente se il carico fiscale fosse più basso. Minore. Ecco, dice però anche che per i conti negativi del paese pesa di più la spesa pubblica improduttiva, l'incapacità di fare tagli sulla spesa pubblica, tradotto, che non l'evasione fiscale. Mi sembra Su questo non sono d'accordo, anche perché noi abbiamo la spesa pro capite al netto degli interessi più bassa d'Europa. Abbiamo tagliato tanto la spesa in questi anni. Lei dice che la spesa pubblica non è comprimibile? La spesa pubblica va radicalmente riqualificata, perché gli sprechi ci sono le ruberie, quindi va radicalmente riqualificata e riallocata, ma non ci sono le condizioni per un taglio ulteriore significativo. Certo, non di tagli spesa, lineari, di sicuramente. Spesa pubblica. Senta, intanto, salvare l'Italia con le Poste è una strategia industriale o è veramente una pecetta, cioè un aiuto di Stato? No, è un passo transitorio di una strategia industriale. Certo che però l'Europa, per esempio gli inglesi, non è che... Ma io credo che gli inglesi dovrebbero guardare a casa loro prima di fare i primi della classe. E guardare cosa? Ma guardare a quello che hanno fatto, l'atteggiamento che hanno nei confronti del bilancio europeo, per esempio, prima di parlare di noi. Senta, ma lei sarebbe favorevole alla nascita di una nuova IRI? Sono favorevole affinché vi sia un intervento pubblico significativo per le imprese di qualità. Senta, ma un PD guidato da Renzi, lei ci resterà dentro? Assolutamente sì. E per chi voterà alle primarie? Voto per Gianni Cuperlo. Ma di Renzi, lei ha detto che l'unica cosa certa di lui è la sua data di nascita, non è tanto gentile? Ma perché ci ha abituato a una grande disinvoltura culturale e politica, passa dall'iperliberista Zingales e pochi mesi dopo cita il neo-keynesiano Krugman per spostarsi a sinistra nel dibattito congressuale. In quel senso allora, ecco, ma si può fare il sindaco, il segretario come vuole fare Renzi o no? No, ma non per questioni di tempo, per questioni di etica politica. Perché? Perché il segretario del partito è una figura di parte che deve portare avanti una battaglia di parte, il sindaco è il sindaco di tutti, che ha un ruolo istituzionale. Senta, ma perché Renzi è così antipatico? Ma no, non mi è antipatico, anzi è molto simpatico, gli riconosco straordinarie i doti, alcune volte invidio anche la sua capacità comunicativa, dopodiché ritengo che abbia una proposta inadeguata alle sfide che abbiamo di fronte. Però molti si aspettavano che si candidasse anche lei alla segreteria del partito, perché non l'ha fatto? Perché mi è stato chiesto di entrare al governo, di dare una mano al governo, e faccio sempre il gioco di squadra. Nel suo libro, Il lavoro prima di tutto, lei punta molto sulla vitalità del cattolicesimo sociale. In che senso? Perché? Perché ha un'attenzione alle condizioni della persona che lavora e una capacità di critica al liberismo che noi a sinistra abbiamo smarrito. Dice parole che non si dicono più, infatti. E che cosa pensa di Papa Francesco, in sintesi? Penso che sia una straordinaria personalità con una grande forza innovatrice e capace di guardare alla radicalità dei problemi che abbiamo di fronte. Pensa che con lui cambierà qualcosa nel dibattito sui temi etici? Certamente per quella parte di temi etici che riguardano le condizioni della persona che lavora, la povertà, le opportunità. Se posso, le faccio un'ultima domanda personale, posso? Prego. Ecco. Con sua moglie, se non sono mal informato, avete 3 figli, uno di 25 anni che ha studiato all'estero, non so adesso dove sia, e 2 piccoli, ma come mai tanta distanza? Una curiosità. Dopo il buio dell'improvvisa morte di mio fratello, con mia moglie abbiamo deciso di scommettere sulla vita, di riaccendere la luce. Grazie, grazie. Dopo la pubblicità, naturalmente torneremo in studio con gli amici Pietrangelo Buttafuoco e Mario Secchi. E il nostro numero di telefono è 800 24 00 24, il numero di SMS 349 238 6666. A tra poco. Mix 24. E mi pareva strano, e gli pareva strano, e ci pareva strano, ma strano, strano, strano, che fosse tutto giusto. Siamo di nuovo in diretta a Mix 24, al mio fianco come sempre Pietrangelo Buttafuoco e Mario Secchi. Buongiorno. per aggiungere qualcosa in pentola al nostro numero 800 24 00 24 per gli SMS 349 238 6666. Pietrangelo, perché questa canzone? Mi pareva strano che tutto fosse a posto, che andasse bene, invece un giorno interdetto, poi condannato, poi decaduto. Silvio Berlusconi, che sembrava aver messo tutto a posto, di nuovo ossigeno al governo Letta, a un certo punto niente, pareva strano e strano sarà. Sei d'accordo, Mario? Abbastanza, senti, sì. prima di sentire che cosa bolle nella nostra pentola e sentire le cose che voi volete aggiungere alla nostra pentola, vi chiedo che titolo fareste per l'intervista di Fassina sui giornali. Mario, il cingolato. C'è tosto. E tu, Pietrangelo? Io farei ricchi due punti, fate i banchieri e non più gli imprenditori. Ecco, infatti. A parte Maradona, poi. Maradona è un caso speciale. Ecco, che cosa bolle in pentola, Maggio? La sigla. Eccoci qua. E allora, Mario, dove cominciamo? Facciamo una cosa. Il primo punto istituzionale, cioè la legge di stabilità non va solo in Parlamento, va anche a Bruxelles. Non mi vorrei nei panni di chi in Europa deve leggerla, perché vi assicuro che è un testo quasi incomprensibile in alcuni punti. Purtroppo anche il draft legislativo, così si chiama, sta scadendo parecchio. Abbiamo visto che è cambiato innumerevoli volte. 2 ore, 7 volte, 10 volte, non so quanto. Tralascio i particolari sulle bozze che ho visto io, perché c'erano delle cose anche esilaranti, devo dire. Torno a uno dei temi, secondo me, del giorno, che ieri è passato un po' così sotto traccia, perché era domenica, perché era tardi, ma il gesto dell'ombrello di Maradona che tempo che fa, è incredibile. Ora, la cronaca la conoscete già tutti, 39 milioni e fischia di euro dovuti al fisco, lui fa il gestaccio. La cosa che a me ha lasciato stupefatto è che il conduttore, non ha reagito. Fazio, non ha detto niente, sì. E il pubblico applaudiva. È perché lì è la questione della frode fiscale, siccome c'è tutta un'etica attaccata alla frode fiscale, siccome il campo degli avversari, o meglio ancora dei nemici, si spartisce l'etica proprio sulla frode fiscale, e lì è il pare, punto. Comunque, mi pare comunque che c'è su questo punto del gesto di Maradona anche il ministro Fassina sia stato abbastanza preciso, molto duro. Però la morale è che Maradona frode è molto simpatico e accattivante, è un grandissimo campione, però forse lì ha esagerato e forse qualcosa bisognava dirgli. Perché se la frode la fa Maradona è politicamente corretta, tant'è vero che il pubblico applaude. Che tempo che fa che è politicamente correttissimo, batte le mani. E quindi vuol dire che è una cosa giusta. Dai, che poi dicono che siamo contro. No, io difendo a tutti i costi il pubblico. Che tempo che fa. Il pubblico di che tempo che fa. Ma che il pubblico è un pubblico consapevole. Allora, adulto. Allora può frodare, si dice così? Sì. Ma no, e come, no. Come quelli, perché sono i più per bene in assoluto. Ma no? Scusa, ma se anche Fassina ha detto che in certo senso se uno ne ha bisogno, no, quello per quello che riguarda Maradona, ma che se uno può, insomma, se ha bisogno, può in qualche modo non pagare le tasse, se Maradona rientra, non lo so. Lorenzo da Milano, sentiamo Lorenzo da Milano. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, sono in completo disaccordo su quanto detto sui giovani in Italia da lei, conduttore, e dall'interlocutore Fassina. Cosa ho detto io? Cosa ho detto? Scusi, non ho... Lei ha interrogato, secondo lei... ha parlato dei giovani con Fassina, il quale dicendo che il sindaco di New York ha detto che... Beh, l'ha detto, questo l'ha detto il sindaco di New York, è quello e che ha detto. Fatto bene, ha fatto bene, bene, caro signore, perché i giovani... Mi chiamo Minoli. Minoli, vabbè, no, così, non posso chiamarla signore, vabbè, sì, per carità, signor Minoli, no. Signor Minoli, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, le stavo dicendo che il sindaco ha ragione, io gradirei che qualcuno si informasse di più, perché per esempio il vecchio presidente della Costa d'Avorio, che ha fatto studiare tutti, ha perso il paese, ma non lui, il popolo ivoriano. Quindi è meglio non studiare, d'accordo, grazie, grazie mille. Mario, andiamo avanti con le bolle. Ma dunque, una notizia che probabilmente leggerete poco sui giornali italiani è questa, perché sai, il mainstream del politicamente corretto. Il governo inglese ha dato via libera alla costruzione di una centrale nucleare di ultima generazione, quindi la produzione dell'atomo continua. E c'è una cosa interessante sul fronte bancario, ne hai parlato con Fassina. Beh, insomma, JP Morgan nel weekend ha concordato una multa da 13 miliardi di dollari per un caso giudiziario aperto sulla crisi dei mutui subprime, sì? È in corso, pare, un'altra causa con Bank of America che potrebbe valere altri 6 miliardi di dollari. Cioè, pensa che cifre che deve pagare JP Morgan. JP Morgan paga 13 miliardi, è il risarcimento più grande, è la multa più grande della storia. Ma JP Morgan può pagare 13 miliardi e restare viva? Oh yes, sir. Assolutamente. Vedi che è meglio fare il banchiere che l'imprenditore, come diceva giustamente Pietrangelo. Pietrangelo, e tu e Salamini che punto sono? Salamini? Sempre in tema di politicamente corretto, e succedono queste cose per cui c'è stata la manifestazione a Roma, sono arrivati gli antagonisti e gli antagonisti hanno fatto campeggio nell'area di Porta Pia, e allora viene in mente che si potrebbe fare un giochino malizioso e chiedere al sindaco Marino, che è così attento e responsabile nei doveri civici, insomma, se l'è presa con quattro pensionati che stavano davanti Palazzo Grazioli e ha notificato l'abuso per occupazione di suolo pubblico. Chissà cosa farà mai per questo campeggio che durerà fino a domani, per questo fine settimana lungo. Vabbè, ma sono ragazzi, ma lui ha una vocazione eroica, perché ha riconosciuto in questi antagonisti gli eredi degli eroici bersaglieri. Mario? No, è Mario, che Porta Pia manca solo lo Stato Pontificio a questo punto, che torna e ci siamo. Siamo arrivati. Gianluca da Firenze. Pronto, Gianluca? Sì, salve. Buongiorno Minoli. Salve, come dicevo prima, stamattina ascoltando, vi ascolto tutte le mattine. Grazie. Mentre lavoro con le cuffiette. Grazie. Mi sono sentito un po', ho preso ancora una volta in giro da Fassina, perché continuano a dire che dobbiamo... Io ho 33 anni, da due anni sto tentando di mettermi in proprio, ho lasciato l'azienda dove lavoravo. Sì, per provare l'avventura imprenditoriale. Sì. Ecco, ed è tutto un... sembra è una corsa a ostacoli dove, superato un ostacolo, te ne mettono uno ancora più alto. Cioè burocrazia, questo è il punto. Burocrazia, leggi che si contrastano l'una con l'altra, bisogna dare retta a troppe cose, la regione, il comune, ma ce la sta provincia. Ce la sta facendo, no? In che settore lei sta operando? Meccanica, la meccanica d'auto. Ok, allora comunque... A parte l'averci rovinato un attimo il mercato, io lavoravo per marchi importanti, quale Porsche. Ma la Porsche va bene, mi pare, sul mercato, no? La Porsche va bene sul mercato, voi no. Ma non in Italia, perché ci hanno distrutto il mercato. Ora, chi ha una Porsche non è detto che guadagni certo, che l'abbia comprata con l'evasione fiscale, anche bravo, perché una Porsche usata ora come ora costa quanto una Golf nuova. Vabbè, allora è un investimento, dice lei. Grazie. Mario? Ma dunque, a parte che su questo ha ragione il nostro ascoltatore, ricordate Fonzie e Ricky Cunningham, Happy Days? In Inghilterra ne faranno un musical, Henry Winkler, cioè Fonzie, sarà il consulente, e per finanziarlo faranno il crowdfunding, cioè la raccolta di fondi in rete. Si versano 10 sterline e il 25% degli utili, che si annunciano strepitosi, saranno divisi tra gli investitori. Se avete investito in borsa $1,000 nel 2003, attenzione, perché succede questo: 1069 con il venture capital, $1,170 con gli hedge fund, 1610 con l'indice Standard & Poor's. Meglio le azioni. Mix 24. Sono le 9:47, siamo a Mix 24, buongiorno professor Simonelli, è in linea. Prima di dirvi però di parlare col professor Simonelli, volevo chiedere a Pietrangelo e Mario dov'era il canone ieri sera secondo loro, se hanno visto la televisione. Non era da Fazio, questo non è sicuro. Era da Fazio il canone. In realtà ero tra le pagine di Ricordati di vivere, l'ultimo libro di Claudio Martelli, quindi, era altro che servizio pubblico, un racconto bellissimo. Una grande storia, una grande storia, è vero. Ecco, professor Simonelli, e per lei il canone ieri sera dov'era? Ma guarda, a parte Fazio, su cui potremmo poi aprire un dibattito, il canone più che era sarebbe stato su Lucignolo molto tardi, verso le 11:30, quando è partito un servizio sui funerali di Lea Garofalo. Dico sarebbe stato perché, a parte gli incidenti tecnici tra la conduzione e il servizio, cui stamattina molto si parla in rete, quello che mi ha poco convinto, al di là delle buone intenzioni, perché l'idea era buona, cioè fare un ampio servizio che nessun'altra rete ha fatto, nessun telegiornale ha fatto in forma così ampia e approfondita, c'è stata una serie di interviste, di primi piani, anche dei giovani, perché il tema di Lucignolo è i giovani, che grondavano un po' di retorica, sì, pieni di sorrisi, pieni di speranza, quindi, pieni di ottimismo, come sono belli, erano tutti belli questi ragazzi, come sono vivaci, come sono attenti, come sono partecipi, come sono pieni di speranza. È un po' lo stereotipo, e di fronte a un fatto che invece è così tragico, anche in questa conclusione, se vogliamo, pensa davvero di speranze e di rinnovamenti. Sì. Ecco, questa presenza di retorica, questa presenza di stereotipi retorici ha limitato la qualità del prodotto. Ecco, volevo chiedere una cosa, professore. Ha fatto una battuta prima, siamo in chiusura, ma una battuta su Che tempo che fa. Ecco, cos'è che voleva dire lei invece? Volevo dire che tutto sommato ieri sera il canone c'era un po' anche lì, perché per fortuna quello che è successo, compreso Maradona, è servito a far dimenticare Brunetta. Questo era il pericolo, che ci fosse una brunettizzazione di tutta la trasmissione. Vabbè, e quindi tante questo tema di quanto si guadagna. Almeno ieri abbiamo visto delle interviste belle, brutte, finite male, ma delle interviste sull'altro, insomma, non su se stesso. Tanto idee. Fassina qui ha detto un'altra cosa, ma qui siamo al massimo del pluralismo. Mi fa piacere che il professor Simonelli, che sta sempre con noi e che è molto autorevole nei suoi giudizi, la pensi così al telefono. Noi abbiamo, grazie professore, ci risentiamo mercoledì, noi al telefono abbiamo Sveva Sagramola, la conduttrice, autrice da 16 anni, se non sbaglio, di Gheo in Gheo. Sono 16 gli anni? Sì, non ti sbagli. Ciao Giovanni, buongiorno. Ciao Sveva. 16 anni di natura, di animali, di ecologia, è una passione profonda. Sì, sì, 16 anni sui temi che sono i temi del nostro presente. Quando io ho cominciato ancora l'ambiente era un tema di nicchia. Eravate fra i primi. Esatto, in qualche modo ci è esploso in mano, è diventato il tema, che è un tema che si porta dietro una riflessione molto profonda proprio sul modo di stare al mondo, sul modo di sfruttare le risorse, sull'etica dei consumi. Quindi è stato davvero un viaggio affascinante quello di questi anni. Ma tu, oltre a condurre e essere autrice di Gheo in Gheo, hai fatto anche degli altri programmi, ma soprattutto hai realizzato in giro per il mondo tanti documentari, quindi sei anche una documentarista di qualità. Sì, spero di qualità. Vabbè, credo, insomma, di qualità, sì, che parlavate di qualità. E io ci tenevo a dire che Gheo comunque nel 2010 era in testa a tutti i programmi dal punto di vista dei telespettatori per quello che era il senso del servizio pubblico e della qualità. Sono quindi molti, infatti, quelli che apprezzano moltissimo Gheo proprio per la sua natura profonda di servizio pubblico e di educazione alla qualità della vita e al rispetto della natura e degli altri, sì, quindi. Sì, non solo, io ci tengo anche a dire che Gheo è un programma fatto internamente alla RAI, dove veramente noi siamo il servizio pubblico, anche nella realizzazione, anche con le forze e le professionalità di questa azienda che avrà mille difetti, ma comunque è un'azienda grande. Ma grande e tanti difetti, ma tantissime qualità anche. Sì, assolutamente. Gheo, per esempio, è una delle qualità del servizio pubblico. Sì. No, lo dico perché lo penso profondamente. Ma tu, nel tuo orizzonte professionale, hai ancora Gheo? Per ora sì. Per ora sì, a meno di altre proposte, però insomma io per ora ho Gheo e devo dirti che sono anche felice di fare Gheo, anche se lo faccio da tanti anni, perché è un programma che si rinnova ogni anno, perché ho 3 ore da riempire di spazi, di narrazioni, di storie. Poi documentari bellissimi. Quanti sono i documentari che realizzate, quanti quelli che acquistate, come percentuale? Come percentuale direi un 70% di acquisto e un 30% di produzioni. Comunque, produzioni di alto livello, con documentaristi italiani che faticano, hanno sempre meno soldi ma riescono a fare dei lavori di grande qualità. I documentaristi italiani sono praticamente degli eroi, perché fare documentari in Italia con i budget, io penso che invece questa è una grande carenza del servizio pubblico, che spero che sarà in qualche modo una lacuna colmata, perché valorizzare i documentaristi vuol dire davvero dare un impulso alla qualità del racconto e a radicare la qualità negli operatori italiani. Assolutamente, noi nel nostro piccolo lo facciamo e sono tanti i documentaristi. Sono che tanti, avanti. Ma vivono male, lo so lo bene, so, lo perché so, la storia siamo noi, male, abbiamo sì. avuto tanti problemi. Comunque io, prima di chiudere, volevo chiederti una cosa, tu hai fatto anche un altro programma di cui non ricordo il titolo. 6 miliardi di altri. Ecco, di che cosa parlava esattamente? Quello era un programma che riprendeva un lavoro fatto da un regista francese, Yann Arthus Bertrand, quello che ha fotografato la Terra vista dal cielo, il quale a un certo punto ha deciso di andare per il mondo, ha mandato tanti ragazzi con le telecamere per il mondo, a intervistare le persone sugli stessi argomenti, facendo delle domande molto semplici: cos'è l'amore, qual è il senso della vita, cosa vorresti lasciare ai tuoi figli, no? Quindi le grandi domande generali. Le grandi domande, e poi ha montato tutte le risposte, una attaccata all'altra. Vabbè, Salvatores con gli italiani sta pensando una cosa di qualche... insomma, che un po' gli assomiglia no? In questo... so che la RAI ha lanciato un grande... RAI Cinema ha lanciato un grande progetto che ha qualcosa di analogo, Qualcosa di analogo. E io comunque nel programma poi sono riuscita a fare gli approfondimenti proprio su questi grandi temi, ed è stato viaggiare dentro le storie degli esseri umani, è stato bellissimo. Bene. Bellissimo programma che non ha avuto seguito alla RAI. Ma chissà, non si sa mai, la RAI non si sa mai come va a finire. Vero? Senti, comunque ti faccio veramente tantissimi auguri, sei bravissima. Grazie. E speriamo che tu possa continuare con la qualità a cui ci hai abituato. Grazie a Sveva Sagramola, e anche per oggi vi ringrazio, e l'appuntamento è per domani mattina alle 9, come sempre.